Le lettere spirituali di Giuseppe Renzi vennero pubblicate postume nel 1943. Renzi era stato sepolto vivo da quel fascismo che avversava pubblicamente e, a differenza di altri, era stato sepolto così bene che alla fine della guerra nessuno, ma proprio nessuno, si è ricordato di lui. Le odierne ristampe dei suoi libri, l'ultimo, se non vado errato, è dedicato alla democrazia diretta. La si deve questa ripubblicazione all'iniziativa di Leonardo Sciascia, che aveva sempre tenuto a mettere in luce lo stretto rapporto che lega l'opera di Renzi al teatro di Pirandello. Nella quarta lettera, laddove si chiede che cos'è che uccide, che cos'è che conduce alla morte, il filosofo scettico risponde che a condurci alla morte è la vita, con la sua lima assidua, dolori e piaceri, preoccupazioni e gioia, desideri e soddisfazioni di essi, pensiero e gioco, sensazioni, fatti di coscienza. Vuoi essere immortale? Si domanda ancora. Beh, rinuncia alla vita. L'argomentazione, a dire il vero, né mi ha rallegrato né mi è stata utile in altro senso. L'ho considerata poco più che un calambur autocontraddittorio per gente che ha tempo da perdere, ma mi ha colpito la metafora metallurgica della vita, una vita antropomorfizzata muscolarmente che, munita di lima, si dà da fare per limare se stessa. Mi sono detto che questa metafora era datata sì, ma ben radicata nella cultura materiale di questo nostro secolo che se ne va. Nella vita di Mussolini, per esempio, la lima a livello metaforico e niente affatto metaforico è apparsa almeno in un paio di occasioni. Nel 1908, da marxista leninista, collaborava ad un giornale di Oneglia con articoli di fuoco che avrebbero dovuto incentivare il proletariato ligure alla ribellione, e il giornale si chiamava per l'appunto La Lima. Poi, più tardi, quando il marxismo-leninismo era diventato poco più che un ricordo imbarazzante, pochi giorni dopo aver gridato in Parlamento ai partiti di sinistra testualmente: voi dovreste ricevere una carica di piombo sulla schiena, noi siamo ancora in tempo e ve lo proveremo più presto di quello che non pensiate, Mussolini, nel giugno del 1924, si trovò impelagato nel delitto Matteotti. Dai documenti raccolti e pubblicati da Alessandro Schiavi nel 1957, La vita e l'opera di Giacomo Matteotti, edito da Opere Nuove in Roma, si ricavava che Matteotti fosse stato ammazzato con una coltellata alla giugulare, ma in varie ricostruzioni odierne l'intera meccanica dell'evento appare ben diversa. Sembrerebbe infatti che il povero Matteotti, nel disperato tentativo di opporre resistenza al rapimento in corso, sia stato colpito più volte con una lima sul cranio e che a ciò si deve la sua morte. L'altro giorno torno da Firenze e in stazione prendo un taxi. È condotto da uno che evidentemente ama la chiacchiera e coraggiosamente disdegna quella improntata alla presunta neutralità del convenevolo. Fra i miei monosillabi, a dire il vero, passa in rassegna allora la politica delle ferrovie dello Stato, punto di inizio da dove mi ha raccolto, i problemi dell'amministrazione cittadina, e financo passa in rassegna l'analisi degli atteggiamenti di chi in fila sta attendendo per l'appunto un taxi. È un osservatore lui, un osservatore, tanto che ad un dato punto del tragitto arriva a chiedermi quanti figli ho. Uno, rispondo. E dal tono credo che lui si sia sentito incoraggiato. Uno, e scommetto che è disoccupato, mi fa. Certo, non è difficile in questo paese al giorno d'oggi azzeccarci con un pronostico del genere, no? E scommetto che lo ha fatto studiare. Beh, sì, ammetto, diciamo che ci ho provato, ma ha fatto l'università. E magari è laureato. insiste. Sì, sì, dico io, ci ha messo un po', ma è laureato. Male, male, sentenzia lui. E finalmente, finalmente si concede quello che deve essere il suo numero preferito. Male. Io ho due figli che guadagnano quello che vogliono, passano da un lavoro all'altro e la gente fa la fila per assumerli. Ma io non ho mica commesso gli errori che ha commesso lei. Io a 9 anni li ho messi alla lima, li ho messi. Per un po' piagnucolavano alla lima, ma oggi mi ringraziano. I miei sono ricchi e il suo è disoccupato. Alla lima, altro che l'università. Per ringraziarlo di quanto mi aveva insegnato, nonostante il tassametro segnasse 13.900 lire, gliene ho dato 14 e gli ho detto tenga pure il resto. Ma devo dire che quest'ultimo residuato di retorica ad altri tempi non mi ha lasciato indifferente. Da simbolo di una fatica vera per lo stremo di poveri lavoratori che in nessun caso, per suo tramite, avrebbero potuto diventare ricchi, la lima, tranne rare eccezioni, va ancora avanti e indietro, come modo di dire per i furbi. I genitori che gozzovigliano con i figli fra le dovizie dei consumi si sono già belle inventate storie che cantano la loro razionalità lungimirante e di converso l'inettitudine altrui, del poco furbo che studia, di chi rispetta le regole, di chi è rimasto tagliato fuori dalla dovizia e si sta arrabattando nella penuria. La lima, allora, è il benefico Dio a posteriori, da ringraziare quando tutto è andato bene, quel fondamentale artefice che è lungi dal togliere pazientemente qualcosa, come alla vita di Renzi, aggiunge di botto, come al conto in banca della nuova classe agiata. Nelle fiabe, come in tutte le storie, tutti fanno ciò che so. C'è Geppetto falegname felice e i nani sette minator. Noi che siamo quelli senza lavoro, siamo sondaggi di opinione.